Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.06, buona serata da Deborah Rosciani, ben trovati a Focus Economia, la giornata economico-finanziaria che per la verità nel pomeriggio è stata piuttosto intensa su diversi versanti. Abbiamo molte notizie proprio di mero carattere finanziario, perché per la borsa è un'altra giornata nera ed è l'ennesima dopo che l'anno era partito piuttosto bene. Negli ultimi 5 giorni le piazze finanziarie internazionali hanno cancellato tutto quel rimbalzo che erano riuscite a mettere a segno nelle primissime giornate dell'anno. L'incertezza è ancora massima e ancora una volta protagonista negativo degli eventi che poi si abbattono appunto sulla borsa è il comparto finanziario. Stanno di nuovo crollando i titoli del settore a Wall Street e infatti oggi è una brutta giornata per Bank of America, che sta perdendo il 23% sul mercato americano, Citigroup meno 22%, e tutto questo non può che condizionare negativamente tutto il settore anche in Europa. Wells Fargo, tanto per darvi altri titoli del settore, meno 11%, Mastercard meno 9, Morgan Stanley meno 9, Region Financial meno 8,91%, e qua mi fermo, ma oggi di nuovo per il comparto una giornata da dimenticare. Ne parleremo nel corso della trasmissione, ma abbiamo anche tanti altri temi da affrontare. Da Francoforte oggi l'attesa decisione della Banca Centrale Europea di tagliare i tassi di interesse, che nell'Eurozona sono stati riportati a livello minimo storico da quando quantomeno è nata la Banca Centrale Europea. Siamo al 2%, ai livelli su cui la Banca Centrale Europea li aveva portati nel 2003, quando c'erano stati tutti quegli interventi per rispondere all'altra crisi di quel periodo, quella che era derivata dallo scoppio della bolla high tech della borsa, appunto dei titoli tecnologici. Quindi una crisi anche quella volta molto meno seria, molto meno grave di quella attuale, ma appunto per adesso i tassi sono stati riportati su questo livello. E Trichet oggi ha fatto capire che nessuno ha mai detto che questo è il livello minimo oltre il quale, al di sotto del quale la Banca Centrale Europea può andare, anche se per il momento ci sarà presumibilmente uno stop nella politica monetaria espansiva, forse un prossimo intervento, se sarà necessario farlo, ha fatto capire Trichet, ci sarà in marzo. E poi naturalmente parleremo anche della cronaca economica italiana con la conferenza stampa di oggi del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che ha commentato i dati di Banca Italia sull'andamento economico del nostro paese nel 2009, PIL a meno 2%, un dato sicuramente pesantissimo, sul quale però Tremonti ha voluto intervenire con toni che hanno in qualche maniera voluto sdrammatizzare. Beh, ha detto, siamo sui livelli di qualche anno fa, non siamo al medioevo, reagiremo e stiamo mettendo in campo appunto tutte le iniziative necessarie per sostenere l'economia in questo momento molto molto complicato e molto difficile. È un momento molto delicato e difficile per il settore auto. Domani a Bruxelles si incontrano molti ministri, un bel gruppo di ministri delle varie economie dell'Eurozona, per cercare di capire se si può mettere in campo un pacchetto di aiuti, un pacchetto di interventi per sostenere il settore anche in Europa. È chiaro che non si potrà fare qualcosa di simile a quello che è stato fatto dall'amministrazione americana, ma nell'Eurozona è necessario sostenere il settore, che insieme a quello finanziario è quello che soffre di più di questa crisi in corso. E tra l'altro, tanto per completare il quadro, oggi sono stati diffusi i dati sulle matricolazioni in Europa, quelli della CEA. È un anno da dimenticare, lo abbiamo detto più volte. Per rispondere a questo, Moody's ha deciso di mettere sotto osservazione il rating di Fiat. L'outlook è negativo, quindi è possibile un prossimo declassamento per i titoli del lingotto. E sentiremo poi tra l'altro i commenti anche del numero uno della società torinese, Marchionne, che ha detto comunque la decisione di Moody's è legata alle difficoltà del settore. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi se mi vorrete fare compagnia per commentare i temi del giorno. Adesso le altre notizie in breve della giornata. Cominciamo come sempre con il petrolio, che sta continuando a scendere, anche oggi è scivolato del 2% a New York, aprendo a $36,52 al barile. L'OPEC, il cartello dei maggiori paesi produttori, ha tagliato le proprie stime sulla domanda mondiale di greggio nel 2009, spiegando che l'aggravarsi della recessione contribuirà a ridurre la spesa per carburanti. Secondo l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, la domanda globale registrerà una contrazione che è stata quantificata in 180.000 barili al giorno, pari allo 0,2%. I tassi di interesse sono stati abbassati oggi, ma la tendenza dell'Euribor, che è il principale tasso interbancario, quello a cui vengono agganciati i mutui, che è quel tasso a cui le banche si prestano denaro tra di loro, è continuato a scendere. La scadenza a 3 mesi si è portata al 2,51%, il minimo da 2 anni a questa parte, dal 18 gennaio del 2006. Oggi sulla borsa americana si sono abbattute 2 notizie che non sono state proprio positive, o forse una sì, comunque sono una trimestrale e un'altra notizia che riguarda invece un'altra grande istituzione finanziaria americana. Andiamo per ordine. JP Morgan Chase è la seconda maggiore banca statunitense per capitalizzazione, ha registrato nel quarto trimestre una contrazione dei profitti del 76% a $702 milioni, dai 2 miliardi e 970 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Il dato pesantissimo è comunque il risultato migliore rispetto alle stime degli analisti. E invece Bank of America, che sta crollando a Wall Street, potrebbe ricevere nuovi aiuti da parte del governo americano per assorbire le perdite collegate all'acquisizione di Merrill Lynch. Ci chiediamo a questo punto per quale motivo l'abbia fatta. Lo scrive l'agenzia Bloomberg, secondo cui i dettagli verranno probabilmente resi noti il 20 gennaio prossimo, quando la banca americana comunicherà i dati trimestrali. Per Bank of America dovrebbe essere la prima perdita trimestrale da 17 anni a questa parte, verrà comunicata la prima perdita trimestrale da 17 anni a questa parte, ed è una perdita dovuta appunto all'acquisizione di Merrill Lynch, ma anche di Countrywide. Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha chiesto oggi ai dirigenti delle banche francesi di rinunciare quest'anno al bonus e ha nuovamente minacciato di ricorrere alla legge per inquadrare la remunerazione dei dirigenti, soprattutto dei dirigenti per l'appunto. Chiedo alle banche di prendere nuove iniziative, ha detto, chiedendo, citando la sospensione della parte variabile delle remunerazioni dei loro dirigenti sui risultati 2008. Nel 2008 Airbus batte Boeing con 777 ordini contro i 662 del rivale americano. Quella della difesa sembra un'industria priva di crisi. Il costruttore europeo si attende tuttavia, qua lo dice, un 2009 orribile per la prima volta dal 2003, con meno ordini che consegne. Lo ha dichiarato il presidente di Airbus Thomas Enders. Nel 2008 le consegne sono state 483-30. Di più che nel 2007. Parlavamo prima dei dati relativi al mercato dell'auto. Nel 2008 in Europa è sceso del 7,8% rispetto all'anno precedente, registrando 14.712.158 immatricolazioni di nuove vetture. Si tratta dei livelli più bassi del 1993, secondo quanto oggi ha divulgato la CEA, l'Associazione Europea dei Costruttori. Nel 2008 Fiat ha immatricolato in Europa occidentale 1.119.995 vetture nuove, segnando un calo del 6,2% rispetto al 2007. E con questo numero di immatricolazioni, per Fiat la quota di mercato nel 2008 in Europa si attesta all'8,3%, in lieve rialzo rispetto all'8,1% del 2007. Tra l'altro abbiamo anche un altro dato che completa un po' la situazione che continuiamo a dipingere pesantissima per il settore automobilistico. Nel 2008 la produzione di autovetture in Italia sarebbe scesa ai livelli degli anni 60, segnando una quota intorno alle 650.000 unità, che corrisponde ad un calo di circa il 28% rispetto al 2007. La stima è dell'Anfia, che sottolinea il determinante contributo del mese di dicembre al calo della produzione. E come dicevamo, alla luce di questa difficilissima situazione che vive il settore, Moody's oggi ha posto sotto osservazione il titolo Fiat in vista di un possibile declassamento. E tra l'altro non è stata l'unica agenzia di rating ad intervenire su un grande gruppo italiano, perché Standard & Poor's ha posto il rating di Enel sotto osservazione con prospettive negative. Cambiamo argomento. Trenitalia ha festeggiato l'evento con una piccola cerimonia, offrendo in omaggio il viaggio Roma-Milano in prima classe appena acquistato al fortunato passeggero. Stiamo parlando della vendita del milionesimo biglietto dell'alta velocità. Dall'avvio dell'offerta ai primi di dicembre, le ferrovie hanno registrato un incremento del 30% nelle vendite dei biglietti. Spostiamoci in America. Lo staff del presidente eletto Barack Obama e la Camera dei rappresentanti hanno raggiunto un accordo per votare il piano di rilancio da 825 miliardi di dollari. Continuano a salire le stime del piano di rilancio dell'economia americano. Nell'ambito del progetto figurano, ne abbiamo parlato molto spesso nelle settimane passate, sgravi fiscali per 275 miliardi di dollari in due anni e 550 miliardi di dollari di spese. L'indice della Fed di Filadelfia, che sintetizza l'andamento del comparto manifatturiero nel distretto industriale americano, a gennaio è salito a meno 24,3 punti da meno 36 di dicembre. Il dato è stato migliore delle stime degli analisti, che avevano visto invece un miglioramento, ma a meno 35 punti. E per quello che riguarda invece le richieste di sussidio di disoccupazione, negli Stati Uniti la scorsa settimana abbiamo avuto un nuovo aumento di 54.000 unità a quota 524.000. Il dato è peggiore rispetto alle stime degli economisti, che si aspettavano un rialzo più contenuto a quota 503.000. Abbiamo numerosi dati relativi all'inflazione, tra l'altro magari dati che commenteremo tra poco con Beda Romano del Sole 24 Ore, che oggi ha seguito la conferenza stampa del governatore della Banca Centrale Europea Trichet. Il tasso annuale di inflazione nella zona euro nel mese di dicembre è sceso all'1,6% rispetto al 2,1% di novembre. È Eurostat a confermare il crollo dell'indice dei prezzi al consumo nell'eurozona. In Germania l'inflazione è scesa addirittura all'1,1%. In Spagna all'1,4%, per quello che riguarda il nostro paese si ha la conferma di discesa al 2,2% rispetto al 2,7% del mese di novembre. L'ultimo giro di notizie lo dedichiamo invece oggi alle rilevazioni che sono state fatte da Banca d'Italia, comunicate da Banca d'Italia sull'andamento dell'economia e ai commenti che ne sono seguiti da parte del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Tutto un pacchetto di notizie che peraltro commenteremo nella seconda parte di Focus Economia con il nostro Dino Pesole. Il PIL nel 2009 scenderà del 2%, lo dice oggi Banca d'Italia. Per quello che riguarda la ripresa economica del nostro paese, si vedrà solamente nel 2010, quando il prodotto interno lordo salirà dello 0,5%. Colpisce questa crisi soprattutto le piccole e medie imprese, frenano il credito e gli investimenti. Nel 2009 l'inflazione è vista all'1,1%, nel 2010 all'1,4%, e ha risposto, come dicevamo, Tremonti, che a questo meno 2% ha commentato: il calo del PIL di quest'anno ipotizzato da Banca Italia non mi preoccupa, vuol dire che torniamo come nel 2005, è così grave, non mi sembra il Medioevo. Direi che possiamo lasciare adesso tutte le notizie in breve di questa giornata, andiamo a Francoforte. Come vi abbiamo già anticipato, come anche per la verità era ampiamente anticipato dai mercati, come era stato auspicato da molti attori anche economici, industriali, le imprese che lo chiedono. Come sapete, oggi la Banca Centrale Europea ha nella sua riunione deciso di tagliare il costo del denaro di mezzo punto percentuale. I tassi di interesse nell'eurozona sono così al 2%, si tratta del minimo storico segnato dal 5 giugno del 2003. Il differenziale tra il costo del denaro negli Stati Uniti e quello dell'Eurozona si attesta dunque adesso al 2%, perché, come sapete, la Federal Reserve è stata nelle sue misure molto più drastica, molto più, non sappiamo se incisiva, in ogni caso più drastica senz'altro, perché ha azzerato praticamente il tasso sui cosiddetti Fed Funds, fissando un range compreso fra 0 e 0,25%. Fra un po' sentiremo Trichet, intanto però saluto il corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore, Beda Romano. Beda, buonasera. Buonasera. Allora, sentiamo Trichet che cosa ha detto oggi intanto, motivando questa decisione. In primo luogo, non è nostra intenzione ritrovarci in una trappola della liquidità, riferendosi al rischio di tagliare i tassi di interesse eccessivamente, creando così le condizioni per una futura fiammata inflazionistica. La prossima riunione della Banca Centrale Europea, quella di febbraio, sarà soltanto fra 3 settimane, e precisandolo ha voluto dire che un nuovo intervento presumibilmente non ci sarà, quindi il prossimo appuntamento importante sarà a marzo, e poi ha detto, perché no, i tassi potrebbero anche scendere sotto il 2%. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di tagliare i tassi di interesse di ulteriori 50 punti base, portando così la riduzione totale dallo scorso ottobre a 225 punti base. La decisione di oggi è stata presa all'unanimità. Abbiamo considerato le ulteriori diminuzioni delle pressioni inflattive dovute in particolare, anche se non solo, al rallentamento dell'economia, sia a livello globale che europeo. Confermo che non è nostra intenzione ritrovarci in una trappola della liquidità. Pensiamo che il prossimo appuntamento importante per le operazioni di politica monetaria sia a marzo, quando avremo a disposizione informazioni e previsioni nuove. Considerando infatti che il prossimo appuntamento, quello di febbraio, è solo tra 3 settimane, non crediamo possa essere un appuntamento importante sul fronte di decisioni di politica monetaria. La prossima riunione importante sarà quella di marzo. Beh, da sentiremo tra qualche minuto un altro contributo della conferenza stampa di oggi di Trichet. Chiedo però di aiutarci ad interpretare queste prime dichiarazioni del numero uno della Banca Centrale Europea. Ha messo ovviamente le mani avanti, questo però si era già capito nelle scorse settimane che avrebbe potuto essere il suo orientamento per i prossimi mesi, cioè prendersi una pausa e non continuare ad operare tagli dei tassi di interesse una volta al mese. Ma prima di tutto credo che questo taglio di oggi sia in parte inatteso. Dici? All'inizio di dicembre la banca aveva lasciato intendere che avrebbe voluto fare una pausa in gennaio. Poi le cose si sono sviluppate in modo molto molto rapido e in modo molto negativo. E la banca ha dovuto cambiare idea e ha dovuto tagliare il tasso di riferimento di altri 50 punti base, perché è rimasta sorpresa dall'andamento dell'economia, che è stato peggiore del previsto, e da un'inflazione che in dicembre è calata all'1,6%, dal 2,1% di novembre, e quindi più del previsto. La banca oggi ha deciso di tagliare i tassi di interesse e ha deciso di prendersi presumibilmente questa volta una vera pausa. In altre parole, difficilmente la banca ribasserà il costo del denaro un'altra volta in febbraio, la prossima riunione è fra appena 3 settimane, e ha, per così dire, rinviato tutto a marzo, alla riunione di marzo, quando a questo punto non si può escludere un ulteriore rallentamento del costo del denaro. La banca oggi ha lasciato intendere chiaramente che la situazione economica non è buona e che il tasso di inflazione potrebbe calare a livelli tali da indurre la banca a tagliare ulteriormente il costo del denaro per evitare un rischio di deflazione che in questo momento la banca non vede. Allora, Beda, sentiamoci anche questo passaggio, questo che hai indicato tu. We consider risks to price stability over the medium term. Crediamo che i rischi per la stabilità dei prezzi nel medio termine siano bilanciati. Gli ultimi dati disponibili forniscono ulteriori prove al fatto che l'area euro sta vivendo un periodo di significativo rallentamento economico, dovuto in particolare agli effetti dell'intensificazione dell'instabilità finanziaria. Permane un livello di incertezza eccezionalmente alto e continueremo a mantenere le attese di inflazione in linea linea con l'obiettivo di medio termine, ossia al di sotto o vicino il 2%. A partire dallo scorso settembre, le turbulenze sul mercato finanziario si sono intensificate e propagate all'economia reale. Il risultato è stato che l'attività economica in tutto il mondo si è ulteriormente indebolita. Gli ultimi dati disponibili relativi ai mesi di novembre e dicembre indicano un ulteriore peggioramento dell'economia di Eurolandia. Guardando più in avanti, sulla base delle nostre analisi, continuiamo a vedere il perdurare nei prossimi trimestri della debolezza dell'economia. Questo scenario resta circondato da molta incertezza e i rischi per l'economia sono chiaramente al ribasso. Sul fronte dell'inflazione abbiamo assistito ad un calo significativo da metà 2008, dovuto in particolare alla forte discesa dei prezzi delle materie prime. Per i prossimi mesi prevediamo un ulteriore calo dell'inflazione che potrebbe anche raggiungere livelli molto bassi verso metà anno. Tuttavia, ci aspettiamo che l'inflazione torni a salire nella seconda metà di quest'anno. Quindi nella seconda parte dell'anno l'inflazione nell'Eurozona tornerà a crescere, ma partirà da livelli molto bassi, per cui se questo è un modo per dire comunque noi continuiamo ad abbassare i tassi, ma poi più avanti torneremo alla nostra missione originaria, che è quella di monitorare l'inflazione. Mi sembra che anche questo con chiarezza Trichet abbia detto. Ma in ogni caso adesso è la fase in cui la congiuntura preoccupa in maniera enorme. Ci sono stati, Beda, dei riferimenti anche a quel quadro che è emerso oggi dall'Italia, con Banca Italia che ha detto nel 2009 l'economia italiana scenderà del 2%, quindi PIL negativo per 2 punti percentuali, e questo potrebbe essere anche un po' quello che potrebbe accadere alle altre economie. La recessione c'è, a questo punto si tratta di capire quanto sia profonda. Sì, la banca non ha voluto commentare i dati italiani, le previsioni italiane. Proprio oggi un giornale tedesco, il Financial Times Deutschland, annuncia che il governo tedesco potrebbe rivedere le sue previsioni e portarle a meno 2,25% per il 2009. Quindi anche Germania, peggio dell'Italia. Italia sarebbero più o meno a questo punto sullo stesso livello. La banca è evidentemente preoccupata, non c'è niente da fare, insomma questa è una situazione che sta evolvendo molto rapidamente, e oggi Trichet non solo ha tagliato il costo del denaro di altri 50 punti base, portando quindi l'allentamento monetario degli ultimi tre mesi a 225 punti base. In ottobre il costo del denaro nella zona euro era addirittura al 4,25%, ma a parte questo ha spiegato chiaramente che la decisione oggi di ridurre il costo del denaro si è basata su due elementi fondamentali. Prima di tutto il cattivo andamento dell'economia e i cattivi dati che sono usciti nelle ultime settimane, ma poi vi è da parte del Consiglio Direttivo il desiderio di anticipare, per così dire, il cattivo andamento dell'economia delle prossime settimane. La banca è consapevole del fatto che l'economia non migliorerà a breve, e addirittura Trichet si aspetta che il 2009 sia tutto un anno cattivo, una ripresa ci potrebbe essere solo nel 2010. Mm-hmm. Hai avuto la sensazione, Beda, che Trichet, anche se è molto sobrio come sempre nei toni, è molto attento a tutte le parole che usa, come per la verità è sempre, come dire, la policy, l'atteggiamento di tutti i vertici, tutte le banche centrali, capita negli Stati Uniti come capitava anche con l'ex presidente della BCE Wim Duisenberg, che comunque ci sia il timore a Francoforte anche di nuovi shock di natura particolare in quest'anno, dietro ai quali bisognerà correre. Mi riferisco per esempio anche all'ambito finanziario, sono giorni di borsa in cui di nuovo il settore sta crollando letteralmente. No, la banca su questo fronte non si è espressa, io non posso dire di avere notato delle preoccupazioni particolari sul fronte finanziario, questo no, però insomma è evidente che la banca sta affrontando un territorio vergine che mai ha affrontato in passato. E quindi sta cercando di reagire giorno per giorno alla situazione. Credo che la banca oggi abbia lanciato due messaggi fondamentali. Prima di tutto ha portato il costo del denaro al 2%, che è un livello particolarmente basso. Addirittura Trichet ha spiegato che le banche centrali nazionali pre-zona euro non avevano mai portato il costo del denaro a livelli così bassi. E in secondo luogo Trichet ha detto che la banca è pronta a ridurre ulteriormente il costo del denaro, quindi scendere sotto al 2%, ma insomma ha spiegato che non vuole scendere troppo sotto al 2%, non vuole quindi cadere in una situazione in cui il costo del denaro non ha più alcun impatto sull'economia, perché è talmente basso da avere creato talmente tanta liquidità da far sì che la leva monetaria non ha più un impatto e i banchieri centrali non riescono più a gestire la massa monetaria. La trappola della liquidità, come dicevamo prima. Tra l'altro, Trichet, ormai ti identifico completamente con il numero uno dell'Eurotower. No, stavo pensando al fatto che Trichet possa scendere al di sotto del 2%, e abbiamo ricordato in apertura di trasmissione come questo fosse il livello su cui i tassi sono stati portati quando è stato necessario rispondere alla crisi finanziaria di fronte alla quale ci siamo trovati a cavallo fra gli anni 90 e il 2000. Una crisi di natura completamente diversa, pesante, ma non drammatica e pesantissima come quella attuale. È chiaro che pertanto che qui ci vuole una politica monetaria evidentemente più espansiva, forse per questo Trichet, facendo anche il paragone con quel periodo, è chiaro che i tassi dovranno essere abbassati un po' di più anche per questo, per crisi completamente diverse, credo. Tu che ne dici? Assolutamente. No, la crisi dei primi anni 2000 era una bolla finanziaria che era scoppiata ed era la bolla sui titoli tecnologici. Il tasso di interesse è sceso al 2%, il tasso di inflazione era molto più basso di quanto non lo sia oggi, era sotto all'1%, era caduto sotto all'1%, e per un motivo o per l'altro, forse più motivi sbagliati più che giusti, si temeva un'ondata di deflazione. Oggi la situazione è molto più grave, non stiamo soltanto affrontando lo scoppio di una bolla, che è la bolla immobiliare negli Stati Uniti. A questo si è aggiunto una crisi creditizia e finanziaria, e a questa crisi creditizia e finanziaria, a cui bisogna aggiungere la bolla immobiliare, c'è anche un forte rallentamento dell'economia. Quindi alla fine la zona euro sta affrontando un triplo shock in un certo senso, economico, finanziario e creditizio. Beda, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti lascio al giornale. Buona serata. Grazie a Beda Romano, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore. Come sapete, sul taglio dei tassi c'erano stati molti inviti molto espliciti, forse anche per un intervento più corposo da parte degli industriali italiani. Nella riduzione dei tassi la BCE appare in ritardo, questo è quanto ha affermato oggi il Centro Studi di Confindustria nella congiuntura flash diffusa appunto in questa giornata, in cui si denuncia come il credit crunch, quindi le restrizioni del credito da parte bancario alle imprese, si stia diffondendo. E su questa linea è la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Federica Guidi, che ascoltiamo al microfono di Paola Cavadi. Misura naturalmente sacrosanta, dal mio punto di vista ancora insufficiente. Io credo che 2 punti erano quanto ci si, diciamo, attendeva, o quanto il nostro paese aveva bisogno già da tempo, ecco, quindi senz'altro, diciamo, la direzione è quella giusta, però temo con ancora ritardi e comunque con un livello ancora non sufficiente. Le 17:38, eccoci ritrovati insieme, e oggi avremmo voluto raccontarvi delle notizie migliori per quello che riguarda la borsa, almeno la giornata era partita secondo questo intento, poi vanificato nel corso della giornata. Allora sentiamo quello che è successo oggi sui mercati finanziari. Succede che stanno ancora una volta crollando, ma letteralmente crollando, a Wall Street i titoli del settore finanziario, trascinando al ribasso dopo i crolli di ieri di nuovo tutti gli indici: Dow Jones -1,64, Nasdaq -1,44, Standard & Poor's 500 -2 punti. Andiamo in Europa: Parigi -1,84, Francoforte -1,94, Londra -1,58, e chiude Piazza Affari, che sta registrando un ribasso dell'1,92% sull'S&P MIB, Mittel -1,44. 34%. Anche oggi il lavoro non vi è mancato. Andrea Fontana, Radio Cori, il Sole 24 Ore. Sì, buonasera. Deborah, oggi è un pomeriggio completamente inaspettato e che ha modificato il tentativo di recupero di questa mattina delle borse europee, un pomeriggio dove gli indici sono andati progressivamente allargando le perdite sulla scia di Wall Street e soprattutto sulla scia dell'andamento preoccupante in borsa come diciamo dal punto di vista delle attività, almeno secondo quanto circola sui mercati, per due tra le principali istituzioni finanziarie statunitensi, cioè Citigroup e Bank of America. Sì, anche perché voglio dire, questo 18% di calo di Citigroup era direi inaspettato, non tanto perché il titolo dovesse chissà fare che cosa oggi, ma perché comunque sta registrando prestazioni di questo tipo da diverse sedute, per cui quanto può raschiare il fondo nonostante le difficoltà. Il caso del giorno è però Bank of America, che a quanto pare chiede aiuti all'amministrazione americana per sostenere il peso della sua acquisizione di Merrill Lynch. Esatto. E qui ci verrebbe da dire chi gliel'ha fatta fare. Esatto. Certamente per quanto riguarda Citi, se è qualche giorno insomma che insomma le preoccupazioni si vanno sommando e quindi diciamo era anche lecito forse aspettarsi una giornata più tranquilla sui listini, anche insomma se l'attesa dei conti e certamente novità sul fronte del rafforzamento patrimoniale dell'istituto non dovranno mancare. Questa nuova notizia su Bank of America, su queste indiscrezioni, su un intervento dello Stato dopo l'acquisizione di Merrill Lynch, portano nuova bufera sui titoli finanziari, ne hanno pagato loro sul Dow Jones, ma come abbiamo visto la reazione per quanto riguarda l'Europa non è mancata, tant'è vero che l'indice di settore del settore bancario per quanto riguarda i listini europei ha perso il 3% complessivamente in Europa e in Italia, dove sappiamo come i titoli del settore del credito pesano sull'S&P MIB, sono stati tra i peggiori del paniere dei 40 titoli principali. Infatti adesso li citiamo, volevo però dare un'occhiata anche per esempio sugli altri listini europei. A Parigi BNP Paribas peggior titolo meno 7, AXA meno 5,37%, Crédit Agricole meno 3,35%, non è andata proprio male se si raffronta la situazione con quello che è accaduto invece per esempio a Londra, dove Lloyds ha perso l'11,5%, Barclays meno 7,67% e HSBC meno 6,33%, a Francoforte ancor peggio per Deutsche Post Bank, qui una situazione pure difficile da qualche giorno, meno 18%, Commerzbank meno 11,99%, e naturalmente i titoli bancari italiani non potevano mancare all'appello. La palma del peggior titolo in assoluto e del settore e di Piazza Affari spetta oggi a Unicredito, che finisce a meno 5,65%, Andrea, ma anche gli altri, sì. Sì, diciamo che vediamo in tutte queste sedute ormai da parecchio tempo come quando la bufera si abbatte sui bancari in Italia i due a pagare in maniera più significativa sono sempre gli stessi, cioè Unicredit e Banco Popolare, segno che insomma le preoccupazioni su questi due istituti non si frenano né con gli aumenti di capitale né sembrerebbe con il cambio della guardia ad esempio alla guida dell'Istituto Veronese Banco Popolare. Pertanto insomma, non sono pochi gli analisti che consigliano di tenersi ancora lontano dai titoli degli istituti finanziari, per quanto invece diciamo, i prezzi potrebbero essere considerati a buon mercato per un investimento in questa fase. E infatti chissà che con questi prezzi invece si ritorni un po' a speculare nelle prossime settimane su questo matrimonio di cui tanto si è parlato nelle settimane invece scorse con Mediobanca. I tempi sembrano piuttosto prematuri e le condizioni finanziarie ancora difficili per poterlo portare avanti, ma è una ipotesi che stuzzica molti nell'ambiente finanziario. Andrea, l'altra brutta notizia della giornata, che invece in questo caso si è abbattuta su Fiat, meno 5,58%, il lingotto scivola al di sotto dei 5 euro, perché Andrea? Beh, insomma, Fiat aveva saputo resistere nella mattinata ai dati sulle immatricolazioni europee, dati non certamente positivi, ma che comunque avevano visto Fiat registrare un calo sia nel mese di dicembre che complessivamente, considerando il 2008, un andamento diciamo migliore di quello della media europea. Nel pomeriggio invece è arrivato l'annuncio da parte della agenzia di rating Moody's, che ha annunciato appunto di aver messo sotto osservazione il rating sia di lungo termine che di breve termine di Fiat in vista di un possibile declassamento, e questo ha pesato ulteriormente. Tra l'altro la notizia è uscita nel primo pomeriggio, è coincisa con l'avvio di Wall Street e con il peggioramento del mercato, ecco perché le vendite su Fiat si sono moltiplicate e hanno portato il titolo nuovamente al di sotto della soglia di 5 euro, come tu ricordavi, dove era già scesa con la fine del 2008. Stiamo commentando con Andrea Fontana di Radio Corriere del Sole 24 Ore i temi di mercato di oggi. Siamo andati ad esplorare i titoli che hanno registrato la peggior performance, una giornata in cui stanno crollando ancora i titoli finanziari. Andrea, parlavamo di Enel prima, dopo il credit watch negativo con cui Moody's ha messo sotto osservazione i titoli Fiat, Standard & Poor's è intervenuta invece su Enel. Esatto, e questo ha fatto in modo che Enel riducesse notevolmente i guadagni che aveva registrato durante il corso della seduta. L'annuncio di Standard & Poor's è arrivato circa un'ora dalla chiusura. Enel ha comunque concluso le negoziazioni in rialzo dello 0,7%, ma Standard & Poor's ha annunciato di aver posto sotto osservazione il rating a lungo termine di Enel, che in questo momento è definito su A-, per una revisione appunto con implicazioni negative, e vedremo appunto che cosa deciderà Standard & Poor's sul titolo, ma questo ha portato una certa preoccupazione, anche se su Enel già fortemente penalizzata in questo inizio di anno, anche per le voci di ulteriore indebitamento necessario per andare a acquisire la quota mancante in Intesa, quota detenuta Acciona, aveva recuperato, si era ben comportata nella prima parte della giornata, come altri titoli dell'energia, come per esempio Terna e come Snam Rete Gas, che ha chiuso poi invariata. Ce la fai raccontarmi in 30 secondi il motivo invece del rialzo di Finmeccanica, miglior titolo di oggi, più nel 91%? Beh, non ci sono motivi specifici, diciamo così. Certamente domani è giornata di chiusure, scadenze tecniche sul fronte delle opzioni, delle azioni e dei derivati, per cui c'è stata una certa movimento di recuperatore di Finmeccanica fin da questa mattina, un rialzo che ha resistito anche al peggioramento del mercato, tant'è che Finmeccanica ha chiuso con un guadagno quasi del 2%. Andrea, grazie e buona serata. Buona serata a voi. Noi andiamo invece ad un'altra grande operazione. Edison diventa operatore in Egitto. È stato chiuso oggi l'accordo con il governo egiziano e sottoscritto il contratto di assegnazione per la concessione offshore del giacimento egiziano di Abu Qir. Il valore dell'accordo supera i 3 miliardi di dollari. La concessione diventa efficace da oggi e segue la firma dell'accordo siglato il 2 dicembre. Ha una durata ventennale con la possibilità di essere prolungata per altri 10 anni. E grazie a questo accordo, entro il 2013, la produzione annua di gas del gruppo salirà a 2 miliardi e 600 milioni di metri cubi dagli attuali 1 miliardo e 100 milioni. L'amministratore delegato di Edison, Umberto Quadrino, al microfono di Valeria De Rosa. Noi con questa acquisizione ritorniamo in forza nell'Egitto come produttori di gas e di petrolio. È un'operazione importante, 1 miliardo e 400 milioni di dollari, a cui si sommeranno gli investimenti per aumentare la produzione di Abu Qir, investimenti che sono anche questi dell'ordine di grandezza di 1,5 miliardi. Quindi complessivamente 3 miliardi di dollari, gli investimenti copriranno un periodo di 5 anni e l'obiettivo è di raddoppiare la produzione attuale di Abu Qir e avere la possibilità di esportare del gas che verrà liquefatto qua in Egitto e riesportato anche in Italia. La capacità di esportazione sarà di 1,5 miliardi di metri cubi all'anno. Dopo questo accordo, come aumenta la capacità di Edison sia per quanto riguarda la produzione sia per quanto riguarda le riserve? Praticamente noi raddoppiamo il nostro ammontare di riserve e già da oggi praticamente raddoppiamo la nostra produzione, quindi si tratta di un salto dimensionale importante per noi. Tenga presente che il nostro obiettivo che ci eravamo posto alcuni anni fa era di raggiungere una quantità di gas prodotto pari al 15% dei nostri fabbisogni complessivi, e con questa acquisizione praticamente siamo arrivati al nostro obiettivo. L'ultima domanda in relazione proprio alle esportazioni, questo, se ho capito bene, comunque in subordine al soddisfacimento della domanda di gas locale, perché comunque questo giacimento già in parte soddisfa una domanda locale. Diciamo ci sono due periodi di produzione, di qua fino al 2012 e dopo il 2012. Di qua al 2012 noi contiamo di incrementare subito la produzione e tutta la produzione in eccesso potrà essere esportata, però bisogna incrementare la produzione con nuovi investimenti. Dopo il 2012, in ogni caso, 1.200.000.000 di metri cubi saranno a nostra disposizione per l'esportazione, ai quali si sommeranno l'incremento di produzione che nel frattempo si è andato producendo. Speriamo nel 2012 di non avere problemi di gas come si prospettano quest'anno, però potrebbe essere una notevole mano per risolverli questi problemi. Infatti è una congiuntura particolarmente delicata e speriamo che nei prossimi giorni le cose si assestano come il buon senso suggerisce. Il nostro terminale di Rovigo ha una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi. 6,4 sono già occupati dal nostro contratto di lungo termine per il Qatar, il resto è lasciato al libero mercato. Ma nel libero mercato ci siamo anche noi, quindi potremmo il gas egiziano esportarlo verso l'Italia, noi o le persone a cui venderemo gas per gasificato attraverso il nostro terminale. Il tempo corre, dobbiamo andare rapidamente al prossimo approfondimento e ritorniamo a parlare di un tema che è praticamente ormai oggetto dei nostri commenti, non dico quotidianamente, ma sicuramente meno un paio di volte a settimana ci sono dei dati che vanno commentati, delle notizie che vanno commentate. Stiamo parlando della profondissima crisi che sta investendo il settore automobilistico. Domani mattina c'è una riunione a Bruxelles fra i ministri europei dell'industria per fare il punto sull'emergenza del settore colpito dalla crisi. Ci sono due punti all'ordine del giorno: fare un punto su tutte le misure di aiuto al settore prese o annunciate da paesi europei diversi e poi valutare quali eventuali nuove decisioni possono essere prese a livello europeo. L'appuntamento è domani a Bruxelles, dicevo, sembra strano, ma io lo commento e anticipo quello che potrebbe accadere con Andrea Malan, che invece a New York in questi giorni. Andrea, inviato del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, poi tra l'altro proprio in virtù del fatto che sei a New York e oggi tu abbastanza presto hai appreso di questa notizia che riguarda Fiat, che abbiamo commentando la giornata di mercato con Andrea Fontana prima, e cioè il credit watch negativo, il possibile taglio di rating che potrebbe arrivare ad opera di Moody's. Marchionne, oggi il numero uno di Fiat, ha detto non dico ce lo aspettavamo, ma insomma data la crisi del settore non è che le agenzie di rating possono fare diversamente. In ogni caso, come vedi tu questo appuntamento di domani di Bruxelles? Beh, diciamo che possiamo mettere, approfittando del fatto di essere qua negli Stati Uniti, io metterei in collegamento le due notizie. Il declassamento di Fiat, come hai detto tu, è legato alla crisi generale del settore e accomuna il gruppo italiano a molti altri costruttori stranieri. Lo stesso Marchionne nella dichiarazione di oggi ha fatto riferimento al fatto che dovrà essere trovata una soluzione comune europea e altrimenti il fatto che alcuni paesi approvino gli incentivi e altri, nella fattispecie l'Italia, non li abbiano ancora previsti, crea una distorsione nella concorrenza che va contro le normative europee. Ma aggiungiamo un elemento che è relativo qua agli Stati Uniti. Proprio in questi giorni è stato ufficialmente presentato al Congresso un progetto di legge che era stato in sostanza richiesto anche dai costruttori, che prevede proprio una forma di incentivi alla rottamazione sulla falsariga di quelli adottati negli anni passati sia in Francia che in Italia che in Spagna che in altri paesi europei. Quindi negli Stati Uniti si prevedono fino a un massimo di $4.500 di incentivo per chi acquista una vettura nuova e dando dietro appunto una vettura vecchia. Naturalmente è un progetto di legge che è stato presentato ieri al Congresso, quindi dovrà fare tutta l'altra fila, però dà l'idea di come anche qui negli Stati Uniti le autorità siano ormai sensibili alla necessità di sostenere in qualche modo un settore che, lo ricordiamo, anche qua ha avuto un crollo anche superiore a quello che è stato registrato in Europa. Beh, certo, sei stato a Detroit e tu ancora una volta hai avuto la conferma di tutto questo. Peraltro l'appuntamento di Bruxelles si svolge all'indomani della diffusione dei dati che sono stati pubblicati e diramati questa mattina dalla CEA, l'Associazione Europea dei Costruttori, che ha fatto il punto su quello che è successo nel 2008, anno in cui il mercato dell'auto in Europa ha registrato 14.712.158 immatricolazioni di vetture nuove. Si tratta dei livelli più bassi dal 1993, ma se andiamo a vedere le statistiche e i primati negativi, un altro dobbiamo raccontare relativamente all'Italia. Pare che la produzione di vetture nel nostro paese, per vedere un'altra ammontare di produzione che è quella che si è verificata quest'anno nel nostro paese, dobbiamo tornare indietro al 1961, giù di lì, Andrea? Certo, sì, la cosa, infatti, la cifra è particolarmente preoccupante e naturalmente quello che preoccupa di più i sindacati nel nostro paese. Diciamo che la Fiat quest'anno ha resistito relativamente bene rispetto all'insieme del mercato, perché ha lievemente guadagnato quota, ma ha pur sempre perso 70.000 auto vendute in Europa. Ne ha perse però di più in Italia, perché in realtà tra i modelli di maggior successo della Fiat ci sono stati la 500 e la Panda, che sono prodotti in Polonia, quindi il calo di produzione nel nostro paese è ancora superiore e quindi si è arrivati a livelli appunto da anni 60, con, sappiamo benissimo, poi nel 2008 c'è stata una fermata a Pomigliano per oltre due mesi per un riassetto dello stabilimento e quasi tutti gli stabilimenti chiusi per un mese o due in autunno dopo lo scoppio della crisi. Questa è una delle preoccupazioni più grosse di Sergio Marchionne, che in parte condivisa anche da altri costruttori europei per quello che li riguarda direttamente, ma che sicuramente ha un impatto particolarmente pesante sul nostro paese per come è strutturata la produzione di Fiat e per come stanno andando le vendite di vari modelli. E intanto, Andrea, grazie per essere stato con noi, buona serata. Naturalmente a te, che sei a New York sotto la neve e il freddo, quasi come qua, la decisione di un eventuale sostegno al settore automobilistico può essere oggettivamente europea, ha detto oggi il ministro Tremonti. In Europa si dovrà decidere, l'Italia assumerà eventualmente misure solo in linea con l'Unione Europea. Buonanotte, 18:09, anzi è 0:10 in questo istante. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani. Sono arrivata molto presto stamattina e quindi insomma sembrano delle giornate interminabili. A un certo punto perdo un po' la testa anche la conduttrice. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ancora insieme per la seconda parte di Focus Economia, dove commenteremo naturalmente un po' le principali notizie di questa giornata e ci focalizzeremo sulla conferenza stampa organizzata nel pomeriggio dal ministro dell'economia Giulio Tremonti, che naturalmente non ha potuto non commentare anche le indicazioni fornite dal bollettino economico della Banca d'Italia, secondo la quale nel 2009 il PIL italiano scenderà del 2%, è recessione profonda. Tremonti ha voluto rassicurare un po' la platea degli intervenuti alla sua conferenza stampa in modo tale che lo potessero ovviamente scrivere su tutti i giornali. Non è una situazione così drammatica, siamo ai livelli di qualche anno fa, non siamo nel Medioevo, per cui tutto sotto controllo. Ma sentiremo poi il nostro Dino Pesole, che è intervenuto, che è andato a seguire la conferenza stampa, qual era il clima percepito in questa circostanza nel pomeriggio. Poi ci sono tante altre notizie in questa giornata, come vi dicevamo, giornata piuttosto pessima per quello che riguarda di nuovo la borsa. Gli indici hanno perso quasi 2 punti in Europa, Wall Street adesso ne sta perdendo un po' di più sul Dow Jones. Milano ha chiuso la giornata con un ribasso dell'1,92%, a pesare ancora una volta il crollo dei titoli finanziari. Ma adesso andiamo a qualche altra notizia della giornata. Per i ritardatari ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo: ma cosa ha fatto la Banca Centrale Europea oggi? Beh, vi bacchetto perché avete perso tutta la prima parte di Focus Economia, dove abbiamo ampiamente raccontato quello che è successo oggi a Francoforte. A Francoforte la BCE ha deciso di ridurre di 0,5 punto percentuale il costo del denaro, portandolo nell'Eurozona dal 2,5% al 2%. È il minimo storico segnato il 5 giugno del 2003. La decisione era attesa dal mercato, non totalmente, ma comunque un effetto sorpresa per certi versi c'è stato. Trichet ha detto: oggi i tassi sono al 2%, ma non abbiamo mai detto che sia il limite e che non li ridurremo ulteriormente. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di tagliare i tassi di interesse di ulteriori 50 punti base, portando così la riduzione totale dallo scorso ottobre a 225 punti base. La decisione di oggi è stata presa all'unanimità. Abbiamo considerato le ulteriori diminuzioni delle pressioni inflattive, dovute in particolare, anche se non solo, al rallentamento dell'economia, sia a livello globale che europeo. Confermo che non è nostra intenzione ritrovarci in una trappola della liquidità. Pensiamo che il prossimo appuntamento importante per le operazioni di politica monetaria sia a marzo, quando avremo a disposizione informazioni e previsioni nuove. Considerando infatti che il prossimo appuntamento, quello di febbraio, è solo tra 3 settimane, non crediamo possa essere un appuntamento importante sul fronte di decisioni di politica monetaria. La prossima riunione importante sarà quella di marzo. Quando si avranno nuove notizie, nuove previsioni, nuove proiezioni per quello che riguarda l'economia, qualora fosse ancora peggiorata drasticamente la situazione, è probabile che l'intervento della BCE nuovo ci sarà e chissà a che livello potrà essere portato il tasso ufficiale di sconto, appunto probabilmente intorno all'1,5%. Lo vedremo, insomma non facciamo previsioni perché abbiamo già visto che abbiamo già passato un 2008 in cui nessuno ha azzeccato niente, per cui guardiamo in avanti e come tutti fanno adesso si continua a navigare a vista. Peggiorano, andiamo adesso in Italia, le stime della Confcommercio. Il prodotto interno lordo, secondo l'organizzazione, calerà dello 0,6% nel 2009. Beh, questo dato, insomma, lo apprendiamo, ne prendiamo atto, ci sembra da cogliere però con un po' di scetticismo, dato che Banca Italia invece lo vede in calo del 2%, ma per il 2009 la Confcommercio prevede una crisi addirittura meno acuta, ma sarà anche più lunga. La supereremo solo nel secondo semestre del 2010, lo ha detto il presidente dell'organizzazione Carlo Sangalli, che ascoltiamo al microfono di Paola Nania. Il crollo dei consumi, che alcuni paventavano, dei consumi natalizi e anche dei saldi, non c'è stato. Però certamente è una crisi che continua a preoccuparci. Nel 2009 il nostro ufficio studi ha previsto che la crisi sarà meno acuta, ma comunque sarà una crisi più lunga. Voglio anche aggiungere un dato che è drammaticamente eloquente. Il 2008 ha visto 95.000 imprese scomparire. E allora questo è un dato che ci deve fare riflettere. Il governo ha approntato, il Parlamento lo sta votando, un pacchetto anticrisi. Ci sono alcuni provvedimenti che certamente noi condividiamo, come per esempio l'indennizzo alle aziende commerciali in crisi e anche altri provvedimenti come la velocizzazione del pagamento della pubblica amministrazione, dei rimborsi fiscali, una particolare attenzione agli ammortizzatori e sociali ed altri provvedimenti. Ecco, noi diciamo che bisogna continuare su questo processo di riforma, in modo particolare sulle riforme che riguardano le infrastrutture, e aggiungiamo che certamente è giusto il rigore sui conti pubblici, però bisogna sfruttare ogni margine di manovra disponibile per arrivare ad una riduzione delle tasse. Borsa Italiana ha avviato la procedura di revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie all'Italia e le relative obbligazioni convertibili. Lo ha reso noto oggi il commissario straordinario della compagnia Augusto Fantozzi. Il commissario ha annunciato anche che a seguito del trasferimento a CAI, la nuova Alitalia, quella guidata da Roberto Colaninno e Rocco Sabelli, dei complessi di beni e contratti previsto dal contratto stipulato con CAI e che è stato perfezionato lo scorso 12 gennaio, è stato deciso il licenziamento di 23 dirigenti delle imprese del gruppo. Un'ultima notizia prima della nostra pausa, rapidissima, i suggerimenti per chi è in viaggio. Citigroup, come dicevamo, a Wall Street sta crollando di nuovo, letteralmente. Il calo è attestato adesso dal 17%, Bank of America perde di più, il 20%. A fronte di questa vera e propria caduta libera, a Wall Street stanno tornando a circolare voci di una possibile nazionalizzazione di quella che è stata per molti anni la più grande banca americana. Gli investitori stanno scommettendo che il governo dovrà intervenire, che dunque il valore delle azioni sarà praticamente azzerato. Allora, oggi intanto la Camera ha dato il via libera al decreto legge anticrisi, i voti favorevoli sono stati 283, quelli contrari 237, le astensioni del provvedimento, che scade a fine mese, passa adesso all'esame del Senato. A parte questo, però, oggi ben più dirompente è stata la notizia che è stata che è arrivata leggendo il bollettino economico di Banca d'Italia, secondo il quale, valutando che, tenendo conto delle misure di sostegno alla domanda decise dal governo, il PIL si sottragga del 2% nella media del 2009, afferma Banca d'Italia. Una previsione che tiene conto della caduta superiore alle attese della produzione industriale nello scorcio del 2008, in particolare il dato di novembre diffuso ieri. La ripresa da Banca d'Italia è vista solo nel 2010, quando il prodotto interno lordo crescerà dello 0,5%. Ci sono poi anche le rilevazioni relative al credito, come si muove in questo momento, come sta sostenendo l'impresa e l'industria. Il credito bancario, dice Banca Italia, cresce a tassi ancora sostenuti ma è in rallentamento, riflettendo una domanda di finanziamenti da parte di imprese e famiglie resa più prudente dalla recessione. Tutto questo è stato naturalmente commentato dalla conferenza stampa che ha tenuto oggi il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Sentiamo allora cosa ha detto a proposito di questa previsione sulla caduta libera del PIL per quello che riguarda il nostro paese. È tutto realistico, lo stesso dato l'ha dato l'OCSE, dati simili li danno in Europa in queste ore, su una base di esperienza ancora più ampia, perché per tutti i paesi. Se uno li confronta coi dati di qualche mese fa, si rende conto che tutto è dominato da un alto grado di incertezza. La stessa fonte, sei mesi fa, un anno fa, dava su oggi dati molto diversi. Tre mesi fa i dati erano diversi da quelli di oggi e si può anche assumere che siano diversi in positivo e in negativo da quelli che poi saranno nella realtà fra tre mesi, fra sei mesi. Questo è un momento nel quale i dati e le previsioni sono, come dire, un pezzo per uno strumento di conoscenza, ma non sono la conoscenza in assoluto, sono delle ipotesi che vengono fatte su una realtà non ancora definita, e su una realtà che non puoi neanche proiettare dall'esperienza passata sul futuro, perché c'è stata una discontinuità. Qualche mese fa io ho detto che non era un ciclo economico ma una discontinuità sistemica. I cicli sono nella normalità, la situazione che viviamo è tutto fuorché normale. Dino Pesole, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, non è tanto preoccupato il ministro dell'economia rispetto a questo dato? È come dire, ci aspettiamo di tutto, può succedere tutto, il contrario di tutto, per cui è inutile commentare questo dato. Quale sensazione hai avuto oggi? La sensazione è che obiettivamente in questa fase sia alquanto, come dire, difficile e arduo azzardare previsioni. Lo stesso ministro dell'economia più volte ha detto che il governo, come sappiamo, si appresta a riformulare le sue stime, perché sta per inviare a Bruxelles l'aggiornamento del programma di stabilità. Lunedì e martedì ci sarà la consueta riunione a Bruxelles dell'Eurogruppo e dell'Ecofin, ed è probabile che in quella sede vengano presentati. La sensazione è che le previsioni del governo siano inferiori, cioè che ci sia una previsione di caduta del PIL ma non di questa entità. Osservato questo, però, la linea del ministro dell'economia ci è sembrata essere quella, è inutile che ci, come dire, soffermiamo troppo su questo, cioè non la crisi in atto è una crisi non ciclica, e quindi, poiché come tutte le crisi cicliche poi presentano degli andamenti e questi in qualche modo si possono prevedere, poiché si tratta di una crisi che lui ha definito sistemica, è molto difficile prevederne non solo, diciamo, lo sviluppo ma anche l'intensità. Quindi questo è un commento ed è una reazione che possiamo considerare certamente diretta alla Banca d'Italia, ma anche alle previsioni che vengono formulate da altri istituti internazionali, l'OCSE, il Fondo Monetario. L'OCSE è l'ultimo, sì, infatti. La stessa Commissione Europea, quindi noi abbiamo colto, come dire, in queste osservazioni del Ministro effettivamente la sensazione che sia obiettivamente molto complicato in questo momento dire meno uno, meno due o meno tre, che ci sia una recessione in atto è evidente, ma ci si possa spingere a prevedere, diciamo, cadute così forti e arduo, anche se poi occorre dire che le previsioni della Banca d'Italia, così come quelle dell'OCSE e degli altri organismi, però sono, diciamo, sempre fondate su dati oggettivi, ecco. Quindi qui a questo punto il Ministro dell'Economia dovrà spiegare su quale base invece il governo italiano ritenga che non sia così. Ecco, altra convinzione l'ha appunto espressa oggi Tremonti a proposito, sempre ovviamente rispondendo ad una domanda di un giornalista, su un possibile appunto deterioramento del deficit per quello che riguarda il 2009, data anche la crescita che sarà minore, poi non sappiamo di quanto, ma in ogni caso la recessione c'è. Sentiamo sulla questione dei conti pubblici cosa ha detto Tremonti. Il deficit italiano e degli altri paesi è tutto in atto, nel senso che nessuno dei grandi paesi ha ancora dato numeri precisi. Lunedì ci ritroveremo a Bruxelles per Eurogruppo, martedì per Ecofin, e in quella sede avremo dei dati più precisi. Quello che le posso dire è che l'Italia fa di tutto per rispettare gli impegni presi, per contenere nel massimo possibile il suo indebitamento. Tenga conto che il dato dell'indebitamento è un rapporto ed è funzione tra indebitamento e prodotto interno lordo. Quel rapporto può cambiare in funzione di una scelta fatta sul numeratore o in funzione della realtà come si sviluppa al denominatore. La politica italiana è di prendere atto di quello che succede al denominatore, ma di non fare nulla che sia imprudente, aggressivo, sul numeratore. Noi non facciamo una politica deficitista, non facciamo una politica di deterioramento politico dei conti pubblici. Cosa intende con questo il Ministro dell'Economia, Pesole? Intende esattamente questo, cioè quello che un po' abbiamo detto prima, c'è l'effetto della minore crescita che ovviamente avrà una conseguenza sul deficit, perché se l'economia cresce meno rispetto alle previsioni sono minori le entrate fiscali, l'economia in genere corre di meno e dunque l'effetto sui conti pubblici è inevitabile. Ma lui aggiunge anche un'altra cosa che a mio avviso ha un certo interesse e lo fa in particolare con riferimento alle ricette anticrisi che sono state messe in campo dagli Stati Uniti ma anche da molti paesi europei, Germania in testa. La sua convinzione è che in questo momento questi interventi massicci sull'economia non abbiano l'effetto keynesiano che è possibile e auspicabile che avvenga, e cioè poiché siamo nell'occhio della crisi, è molto difficile che in questo momento, come dire, stimolare l'economia possa avere degli effetti positivi. Questo ritengo che sia drammaticamente vero, nel senso che in una fase, diciamo, ciclica di economia in recessione, gli effetti, diciamo, di ripresa non possono che essere nel medio-lungo periodo. È ben difficile che, ad esempio, se si utilizza la leva fiscale, i cittadini dei paesi colpiti, ma quindi a questo punto di tutto il mondo, decidano di trasferire questi maggiori disponibilità di denaro in consumi. È molto più probabile che normalmente la gente decida, che ne so, di metterle a risparmio o di pagarci la rata del mutuo. È ovvio che in questo modo non sostieni l'economia, però insomma è un po' nelle conseguenze di una situazione che è obiettivamente molto complessa ed è complessa per tutti. Quasi un po' come ha detto oggi Trichet, Dino, adesso noi stiamo chiedendo, in realtà non riusciamo ad affrontare, magari fare anche questo paragone, che ha detto sì, noi continueremo sicuramente ad abbassare i tassi fino a quando sarà necessario, il 2% non è certo un tabù al di sotto del quale non possiamo scendere, però è comunque il nostro obiettivo è non cadere nella trappola della liquidità, arrivare al punto in cui la politica monetaria non dà più alcun tipo di stimolo, no? 5 secondi. Sì, esattamente, questo però diciamo è il mestiere che fa il banchiere centrale, poi ai governi spetta mettere in moto le misure che devo dire sono doverose, ma che ci sia la possibilità che non abbiano gli effetti sperati, credo che sia fondato questo rischio. Dino, grazie molte, buon lavoro e buona serata. Grazie a voi. E anche per stasera Focus Economia termina qui, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte in assistenza tecnica, domani sera torna Sebastiano Barrisone, noi ci sentiamo domani alle 12 a Salvadanaio. Da Deborah Rosciani, buona serata.